Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve e benvenute e benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo della cultura, le scelte etiche personali, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 631 e ci avviciniamo a celebrare i nostri primi 10 anni di attività. Cominciamo nel marzo del 2012. Nel clima terribile che stiamo vivendo da qualche settimana parleremo anche noi di guerra e poi tratteremo temi più ordinari, ma comunque importanti, visto che crediamo sia necessario continuare a impegnarsi per gli obiettivi che riteniamo giusti, in aggiunta al più generale impegno contro la guerra e perché tacciano le armi. Parleremo quindi di nuove filosofie sulla tutela animale, di allevamenti intensivi che cominciano a essere ridotti, delle ultime notizie sull'emergenza climatica che fa ancora da scenario, non dimentichiamolo, ai fatti tremendi di questi giorni. Gabriele Pallone, come al solito, ci regalerà una ricetta non violenta, adatta alla situazione che stiamo attraversando, mentre la colonna sonora della puntata è affidata alle idee di Gianluca Masala. Cominciamo partendo da una riflessione dell'antropologa Anna Maria Rivera pubblicata sul sito comuneinfo.net. È un articolo che prende spunto dalla recente introduzione della tutela degli animali nella Costituzione e in qualche modo riguarda proprio i pericoli che stiamo vivendo, pericoli di una guerra globale, nella quale potrebbero fare la comparsa addirittura le armi atomiche. L'intervento di Rivera è pubblicato da comuneinfo.net, un sito di informazione e di approfondimento messo in piedi da una rete di organizzazioni e movimenti sociali, con queste parole che ci paiono significative. Poche volte, come in questi giorni, abbiamo potuto valutare appieno quanta fortuna abbia chi nasce in un paese la cui Costituzione ripudia la guerra. Che poi quel ripudio venga talvolta rovinosamente ignorato è un altro, pur sacrosanto, discorso. Non sarebbe poi così strano se dei bambini nati quest'anno, ammesso che la specie umana nel frattempo non sia estinta, un giorno potranno dirsi altrettanto fortunati perché la loro Costituzione ripudia il maltrattamento e l'uccisione degli animali senza distinzione di specie. Esiste un nesso fra le due affermazioni? A parere di Pitagora, certamente sì. Si dice che il più autorevole dei matematici sostenesse che fin quando l'uomo continuerà a distruggere tutte le forme di vita che considera inferiori, non troverà vera pace. 2000 anni dopo gli avrebbe fatto eco lo scrittore pacifista tedesco Edgar Kupfer-Kobervitz, arrestato dalla Gestapo a Ischia e deportato a Dachau fino al 1945. «Penso», diceva Kupfer-Kobervitz, «che finché l'uomo torturerà e ucciderà gli animali, torturerà e ucciderà anche gli esseri umani, e vi saranno le guerre, perché uccidere viene praticato e appreso poco a poco». Naturalmente continua ancora l'intervento di comuneinfo.net, lo sappiamo fin troppo bene, quel che si scrive sulla carta, nella migliore delle ipotesi, impiega decenni e fa una fatica immane a trasferirsi nelle pratiche reali di ogni giorno. Eppure, quelle poche parole in difesa delle vite dei non umani, aggiunte finalmente l'8 febbraio agli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana, una loro piccola rilevanza epocale potrebbero averla. Segue poi nel sito l'articolo di Anna Maria Rivera, la quale fa appunto notare la rilevanza storica delle modifiche introdotte nella Costituzione. In un passaggio del suo articolo, Rivera mette a fuoco la svolta che la modifica dell'articolo 9 della Costituzione potrebbe rappresentare. Già da ora, scrive, la tutela degli animali, costituzionalizzata, assume perlomeno un grande valore simbolico. Infatti, almeno simbolicamente, essa spezza la continuità del pensiero occidentale moderno, il quale sovente ha operato una netta dissociazione fra soggetti umani e soggetti animali, spesso reificando e mercificando questi ultimi, e negando non solo il fatto che essi abbiano un mondo, delle culture, una storia, ma perfino la loro qualità di soggetti di vita senziente, emotiva, cognitiva. Forse un giorno, non troppo lontano, non sarà così banale e ovvio come attualmente ostentare pellicce di visone e o nutrirsi abitualmente di carne. A tal proposito, come a giusta ragione sostiene l'antropologo Monder Chilani, essere carnivori equivale a praticare una sorta di cannibalismo, dato che gli animali ridotti a carne sono stati esseri intelligenti e sensibili, capaci di provare emozioni, dolore fisico e psicologico. Insomma, essi sono per molti versi simili a noi, soprattutto nel caso dei mammiferi erbivori. Così Anna Maria Rivera, la quale sembra dirci che un nuovo sguardo sul vivente è una via di possibile salvezza per un'umanità che rischia di essere travolta dalle pulsioni distruttive di un sistema economico vorace e di leader politici incontrollabili. L'invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito russo e la fuga di massa di migliaia, centinaia di migliaia di cittadini ucraini verso gli stati europei confinanti ha suscitato la contestuale mobilitazione delle organizzazioni animaliste che hanno finito per muoversi a fianco di quelle umanitarie. Molte famiglie, fuggendo dalle città prese di mira dalle forze armate russe, si sono messe in viaggio portando con sé, come è naturale, i propri animali domestici, a loro volta bisognosi di sostegno e tutela, nonché di una legittimazione formale all'ingresso nell'Unione Europea. L'Italia ha disposto una deroga specifica, in modo che non sia necessario disporre preventivamente di un passaporto d'ingresso. Le necessarie verifiche sanitarie sugli animali saranno quindi successive all'ingresso di cani e gatti in Italia. Intanto, molte associazioni animaliste, dalla LAV all'OIPA, Save the Dogs e altre ancora, si stanno impegnando nell'aiuto alle famiglie che si muovono con animali e anche nel sostegno a rifugi e associazioni animaliste ucraine. Fra queste strutture, Animal Shelter Sirius, il più grande rifugio del paese, che accoglie oltre 3.000 cani nella regione di Kiev e ha esplicitamente chiesto aiuto per poter continuare a mantenere e proteggere gli animali. E anche il rifugio Italia KJ2, creato in quel paese da un attivista italiano, Andrea Cisternino. In questi giorni sono aperte numerose sottoscrizioni che possono essere individuate attraverso i siti delle varie organizzazioni animaliste. Dall'Ucraina arriva anche una storia positiva che dà un po' di consolazione. Riguarda il Cat Café di Leopoli. La città vicina al confine con la Polonia è punto di raccolta per molti profughi in arrivo dalla capitale Kiev e da altre città sotto assedio. Il Caffè dei Gatti è ancora aperto e il suo proprietario, Sergei Olinik, non ha alcuna intenzione di abbassare le serrande. Da 6 anni Sergei e la sua famiglia gestiscono il caffè, popolato da una ventina di felini, impegnati in questi giorni a trasmettere un po' di serenità e distensione alle persone sconvolte dalla guerra. Questo, ha detto Sergei al sito The Dodo, ripreso da Europa Today, è stato un rifugio sicuro per la gente di Leopoli, un posto dove le persone possono giocare con i gatti, che sono sempre così felici di vedere gente attorno a sé. I nostri gatti vivono nel caffè da quando avevano 4 mesi, sono come una famiglia. Al momento, dice Sergei, abbiamo meno visitatori regolari, ma ci sono persone che vengono da altre città e hanno bisogno di cibo caldo ed emozioni positive. È quello che possono trovare qui. Sergei aggiunge un aspetto pratico non irrilevante. Qui, dice, ci sono 3 grandi stanze nel nostro bar, 2 delle quali si trovano nel seminterrato. Quindi, in caso di incursione aerea, c'è un rifugio sicuro per i nostri ospiti e per i gatti. Le notizie sulla guerra hanno ovviamente monopolizzato i nostri canali informativi, ma nei giorni scorsi è stato reso pubblico un importante documento da parte degli scienziati che fanno parte dell'IPCC, la rete voluta dalle Nazioni Unite per studiare i cambiamenti climatici in corso e prevederne gli effetti. Gli scienziati hanno anche il compito di dare alcune indicazioni di possibile intervento ai decisori politici. E quindi questo loro rapporto era particolarmente atteso. Inutile dire che il quadro d'insieme è drammatico e che tutti gli indicatori sembrano segnalare che la crisi climatica è più veloce del previsto, tanto che ormai circa la metà della popolazione mondiale, 3 miliardi e mezzo di persone, è considerata formalmente altamente vulnerabile. Fra i consigli dispensati dagli scienziati, ancora una volta, c'è il passaggio a diete alimentari su base prevalentemente vegetale. Ma sentiamo che cosa dice il nostro Francesco Panier, che ha preso spunto dal rapporto per un nuovo lemma del suo lessico dell'Antropocene, la rubrica che ci permette di inoltrarci, senza perderci, nella complessa informazione sulla questione climatica e ambientale. Impatto è la parola che più risalta nel titolo dell'ultimo rapporto dell'IPCC, il gruppo intergovernativo di scienziati incaricato di fornire le informazioni alla comunità internazionale sul cambiamento climatico. Il report, lungo oltre 3.000 pagine, è stato rilasciato il 28 febbraio e aggiorna le previsioni in merito agli effetti che la crisi climatica potrebbe scaricare sulle società umane e gli ecosistemi. Il prossimo report è atteso fra marzo e aprile e sarà concentrato invece sulle misure di mitigazione del danno. Sarà indubbiamente interessante vedere come gli esperti nominati dai governi proveranno a delineare i percorsi per evitare un aumento delle temperature globali di 1,5 gradi entro la fine del secolo rispetto ai livelli preindustriali. Questo è infatti l'obiettivo incluso nell'Accordo di Parigi, che ogni giorno si allontana dall'orizzonte. Sarà interessante, dicevamo, perché il gruppo subisce le pressioni dei paesi legati ai combustibili fossili e delle industrie produttrici, così questa parte propositiva non sempre risulta realistica e credibile. Sull'entità dell'impatto cui andiamo incontro, invece, c'è più consenso. E allora scopriamo cosa dovremmo attenderci se non cambia radicalmente il modello di sviluppo e convivenza. Ogni ulteriore ritardo nell'azione climatica, infatti, secondo l'IPCC, farà perdere la breve finestra di ossigeno che sta in rapida chiusura per assicurare un futuro vivibile e sostenibile per tutti. Già oggi, scrivono gli scienziati, il cambiamento climatico sta provocando gravi danni alle società e agli ecosistemi. Negli anni a venire, tuttavia, crescerà ancora il numero di specie che si estingueranno. Una strage che colpirà anche l'umanità, visto che circa 3,5 miliardi di persone vivono oggi in contesti altamente vulnerabili al cambiamento climatico. Dovremmo attenderci crisi crescenti e migrazioni, mentre gli eventi estremi causeranno un aumento dell'insicurezza alimentare che coglierà milioni di persone, così come la scarsità idrica. Gli impatti più gravi sono previsti in Africa, Asia, piccole isole, Centro e Sud America e Artico. Tra il 50 e il 75% della popolazione mondiale potrebbe essere esposta a periodi di caldo e umidità letali entro la fine del secolo. Aumenteranno quindi significativamente le malattie e le morti premature in seguito a questi eventi estremi. Se il riscaldamento globale dovesse passare il 1,5 gradi, anche se temporaneamente, prima di rientrare al di sotto della soglia politica, si innescheranno effetti irreversibili sugli ecosistemi e le società umane. Infine, l'IPCC segnala che c'è un sensibile scarto fra il processo di adattamento in corso e quello che servirebbe. Attualmente il percorso è considerato troppo incrementale, un sinonimo più educato di troppo lento. Ancora una volta, quindi, dobbiamo riconoscere che i nostri governi sono molto rapidi nel mobilitare risorse per sostenere guerre e conflitti, mentre paiono davvero pigri nel fronteggiare la principale minaccia globale. Forse sarà un buon esercizio provare a ricordarglielo tutte e tutti insieme al più presto. Adesso basta sangue, ma non vedi, non stiamo nemmeno più in piedi, un po' di pietà. Invece tu, invece fumi, con grande tranquillità, così sta a me che debbo parlare. Fidarmi di te. Domani, domani, domani, chi lo sa che domani sarà? Oh, oh, chi non lo so, quale Dio ci sarà? Io parlo e parlo solo per me. Va bene, io credo nell'amore, l'amore che smuove dal cuore, che ti esce dalle mani e che cammina sotto i tuoi piedi. L'amore misterioso anche dei cani e degli altri fratelli animali, delle piante che sembra che ti sorridono anche quando ti chini per portarle via. L'amore silenzioso dei pesci che ci aspettano nel mare. L'amore chi ci ama e non ci vuol lasciare. Ok, ok, lo so che capisci, ma sono io che non capisco cosa dici. Troppo sangue qua e là, sotto cieli di lucide stelle, nei silenzi dell'immensità. Ma chissà se capirà, oh, oh, oh, non so se in questo futuro nel buio forse c'è qualcosa che ci cambierà. Io credo che il dolore è il dolore che ci cambierà. Oh ma e dopo chi lo sa se ancora ci vedremo e dentro quale città brutta, fredda, buia, stretta o brutta come questa sotto un cielo senza pietà. Ma io ti cercherò anche da così lontano, ti telefono in una sera buia, sporca, fredda, brutta come questa. Forse ti chiamerò perché vedi, io credo che l'amore è l'amore che ci salverà. Vedi, io credo che l'amore è l'amore che ci salverà. A proposito dei possibili interventi per mitigare l'impatto del sistema di produzione e consumi, che chiamiamo economia, arriva un'interessante notizia dall'Olanda. Il governo ha reso noti i suoi piani per dimezzare le emissioni di azoto entro il 2030 e fra le misure previste figura la riduzione del 30% degli animali allevati e inviati al macello. L'Olanda è il primo paese a prendere questa strada, finora esclusa tassativamente pressoché da tutti, e per ragioni in parte economiche, in parte ideologiche, in una postura di opposizione a ogni reale cambiamento delle produzioni e delle abitudini di consumo consolidatesi negli ultimi decenni. Ma niente affatto tipiche queste abitudini delle popolazioni europee, che fino agli anni del boom economico post-bellico consumavano quantità di proteine animali molto molto inferiori rispetto a oggi. La decisione presa dal governo olandese naturalmente non risponde a preoccupazioni morali per il trattamento inflitto agli animali. Non siamo quindi nel genere di considerazioni evocate da Anna Maria Rivera nell'intervento che abbiamo citato. Siamo semmai nel campo, anche questo al momento a dire il vero una rarità, di attenzione da parte dei decisori politici, di analisi scientifiche consolidate. Quella stessa scienza che a volte è vissuta e accolta con dogmatica determinazione, e altre volte, come nel caso delle misure necessarie per mitigare il disastro climatico, semplicemente ignorata. La scienza dunque avvisa da tempo che non esistono magiche soluzioni tecnologiche per la crisi climatica e che occorre, fra le altre cose, ridurre l'impatto del settore zootecnico, intervenendo sul numero e sulla densità degli animali allevati. Il governo olandese quindi si è deciso e ha progettato di ridurre di un terzo il numero di animali allevati e inviati al macello, stanziando 25 miliardi di euro per accompagnare la transizione economica che questa misura comporta. In Olanda da molto tempo si parla degli alti livelli di emissioni e di carichi di azoto dovuti principalmente alla zootecnia che hanno progressivamente deteriorato gli habitat naturali più vulnerabili. Greenpeace Olanda in particolare ha esercitato nel tempo un'enorme pressione sul governo olandese, anche con diffide in sede giudiziaria. E ora Greenpeace Italia, sulla scia della sede gemella, chiede all'Italia e al resto d'Europa di imitare il governo dell'AIA. L'Olanda, sostiene Simona Savini, responsabile della campagna agricoltura di Greenpeace Italia, manda un segnale forte anche agli altri paesi europei. È ora di agire con coraggio, dice, se si vuole davvero fermare la distruzione della natura in Europa e in altre regioni del mondo, visto che i terreni destinati all'alimentazione animale continuano a divorare preziosi habitat naturali. La riduzione della densità e del numero dei capi allevati, dice ancora Simona Savini, continua a essere un tabù per la politica italiana, sebbene il mercato stesso dia indicazioni in tal senso, attraverso cicliche crisi della domanda di prodotti di origine animale. Sitting here wishing on a cement floor, just wishing that I had just something you wore. I put it on when I go lonely. Will you take off your dress and sell it to me? I miss your kiss and then I miss your head, and the letter in your writing doesn't mean you're not dead. Gabriele Palloni, il nostro tosco vegan chef, autore del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, da molto tempo è già oltre il modo di pensare, di agire e di cucinare che ancora impedisce di tutelare davvero gli animali e di proteggere contestualmente il clima. E questa settimana commenta con una sua ricetta le drammatiche giornate di guerra che stiamo vivendo. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Sinceramente mi piacerebbe parecchio avere una ricetta per la pace, ma mi sa che se non ci mettiamo tutti un po' di gnegnero, come dice la mia mamma, si va poco lontano. E allora, come di consueto, me la gioco con l'ironia, anche se da ridere c'è ben poco. Gli ingredienti per 4 persone per il Peace and Love sono 500 g di piselli sgranati freschi o in alternativa surgelati, 200 g di lattuga, la parte del cuore, un bicchiere di brodo vegetale, 3 cipollotti freschi, un cucchiaino di zucchero di canna, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale e pepe. Pulite i cipollotti e tagliateli in 8 parti per il senso della lunghezza. Metteteli in una padella con un mezzo bicchiere di acqua o brodo vegetale e lasciatela ritirare a fuoco medio. Quindi unite 2 cucchiai di olio extravergine e fate soffriggere per qualche minuto. Nel frattempo pulite i cuori di lattuga e tagliateli in 4 spicchi. Aggiungete la lattuga ai cipollotti e fate andare per 5 minuti. Aggiungete i piselli, lo zucchero di canna e il brodo vegetale. Aggiustate di sale e pepe, coprite e fate cuocere per circa 30 minuti. Serviteli caldi con un filo di olio extravergine a crudo e una macinata di pepe fresco. Per questa settimana è tutto. Vi saluta l'intera redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Francesca De Matteis, Roberta Marino, Anna Granata, Gianluca Masala, Gabriele Palloni, Francesco Pagnier, Zenone Sovilla, Gianni Ferrarotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.